Allora, la questione è questa: io sono un tifoso della Roma, ma ho smesso di andare allo stadio perché c'era. E da lì eravamo partiti un minuto fa. Tenga conto che tra 30 secondi dobbiamo dare la linea ai Io sono un mercati. antitotti per definirla proprio in modo veloce, perché ritengo che in tutti questi anni non ha mai fatto nulla di buono per la Roma, non ha mai fatto gol decisivi, non ci ha mai fatto vincere nulla. Piuttosto abbiamo fatto un record di vittorie consecutivo senza di lui, abbiamo recuperato all'Inter 13 punti l'anno scorso, poi è tornato lui e l'abbiamo perso il campionato. Abbiamo perso un campionato una volta che pareggiamo con l'Ancona 0-0, quell'Ancona era retrocesso da 5 giornate. E quest'anno pure ce lo stavamo giocando, torna lui col Brescia e si innesca una sorta di depressione nella squadra e poi alla fine questo campionato non è più giocabile. Franco, io domenica scorsa io non contesto mai le teorie altrui quando sono così nette e radicate, perché sennò appunto andremo avanti i giorni e invece è ora di dare la linea ai mercati, anzi sarebbe già stata ora prima. Ricordo che c'era sempre, anche ai tempi di Rivera al Milan, c'era sempre, no, tra i diciamo su 100 spettatori, i 60 che lo adoravano, i 30 che lo ritenevano un grandissimo, i 7-8 più o meno agnostici, cioè c'era sempre quello, no, che per far colpo al bar diceva che Rivera era la disgrazia del Milan. Ecco, il suo intervento mi ha fatto un po' lo stesso effetto. Ancora l'ultimo riscontro di domenica scorsa a Genova, dopo un periodo oggettivamente difficile, è che Totti è stato l'unico, di gran lunga il migliore in campo della Roma. Poi a un certo punto, quando ha cominciato l'allenatore a fare cambi inauditi e dietro a cominciare a frenare la difesa, diventa difficile per lui andare a fare anche, che ne so, il libero.